Ascoltami un momento, apri bene gli occhi, vienimi accanto, apri la finestra, preparo io il camino, fai uscire il buio dalla porta del giardino. Anima mia, ti ho sempre amato, dato tutto me stesso, anche quando ti ho tradito. Le nuvole del cielo le dedico a te, le onde dell'oceano sono note della tua musica, della tua anima libera, libera. Angelo mio, angelo. Sei il mio respiro, a te ho domandato, da te ho tutto avuto, molto di più di ciò che ho dato. Non abbiamo bisogno di parlare, ci capiamo al volo, amore. Siamo, siamo, siamo, sì, amo il tuo cuore. Sempre amato, dato tutto me stesso, anche quando ti ho tradito. Le nuvole del cielo le dedico a te, le onde dell'oceano sono note della tua musica, della tua anima libera, libera. Angelo mio, angelo. Il tuo tempo è il mio, ascoltami.